le mie domande che piano si perdono nell'aria di un mondo che scivola via, un mondo diverso, instabile, che oscilla tra bene e male, poi ti butta via, ti butta via. Sospeso nell'aria mi vedo così, trattengo emozioni e brividi, ma non vedo più, non vedo più, immagini distorta. È un'illusione o forse no, ma sono ancora appeso in aria e vedo il mondo che si butta via. E provo a decifrare quell'immagine sconvolta, ma tra i frammenti in questo